sobą Ghost. Sierco Ripok. Questa è una storia. One, two, l'arcon. Come on! La storia tratta di una canzone. La storia parla degli uomini. Si tratta di un racconto, o forse di realtà, di materialismo nella nostra società. Assolutamente complesso e ben interpretato, un nuovo genere di musica mai ascoltato. Invocati le maniche, il diritto di parola, hai cambiato nuovamente abbondantemente scuola. New school, old school, a noi non interessa, il nostro accordo era quello di non fare guerra. La gente ha apprezzato il tuo particolare lavoro, hai trasformato il fango e le parole in oro. Comunque vada la vita, sopporta la tua croce, non farci caso se gli altri ti alzano la voce. Non essere precipitoso se la tua vita non va, ascolta bene la coscienza, vedrai ti guarirà. Con tutti i giornali vecchi se ne van le parole, che solenni e gravi hanno raccontato la storia. O forse solo storie, solo colpi di pistole che attraversano il cervello e non ne lasciano la memoria. Abiti che andavano di moda 2 ore fa, e in questo mondo nudo io mi pento, io mi illudo. Mi illudo che qualcosa resta e non sia da buttare, magari un grido di libertà, magari parole d'amore. Il mare più se getta e tecca non finire, alta tecnologia a bassa umanità. Giocattoli per grandi che non facciano capire che i giochi sono fatti e nulla ormai ti fa. Come on! La pistola, tanto tutto va in malora. Basta con il fumo, basta con la droga, basta con sta roba, roba da matti. Tanto ormai lo so che i fatti sono già fatti. Metti a posto le parole, metti a posto le mani, tieni la posto, tieni le tue e fallo fino a domani. Come on, yo. Bella storia, eh. Oggi la dignità umana è minacciata da ideologie aberranti improntate al nichilismo, al fanatismo. È aggredita da concezioni antropologiche distorte fondate su una visione individualistica della persona umana, su un'opzione liberal radicale, su un'impostazione edonistica della vita, cioè basata sui piaceri sessuali e materiali in genere. Dannoso è pure lo scientismo per cui vige una scienza senza coscienza e viene calpestata la sacralità della vita umana in funzione di un preteso progresso scientifico. La Chiesa ha la missione di annunciare il Vangelo della vita, la centralità dell'uomo nell'universo e l'amore di Dio per l'umanità. Ha il compito di promuovere la dignità della persona umana, affermando la verità profonda dell'uomo, il quale è un essere creato a immagine e somiglianza di Dio. È oggetto di un amore eterno da parte del Creatore, è salvato al prezzo del sangue e del dono della vita di Cristo. Solo così può essere salvata la pace.